nato per essere vivo. Io non ci arrivo, io non ci arrivo. Com'è che puoi essere schivo in un mondo privo, in un mondo privo di sogni, progetti e colori? Dove gli allori, dove gli allori vanno soltanto in sapori, tonti in colori, tonti in colori. E milito in un reggimento che scioglie ogni armento, che scioglie ogni armento dal tristo intruppamento. Suicida marito, io rido contento, non sono per niente sgomento all'assalto alla pugna, proprio un portento. Cultura milizia est, vita milizia est, navigare nel cesse est, vivere, vivere, vivere, vivere, non necesse se poi non sopravvivessi, non ce la facessi, non ce la facessi, sarà sempre meglio degli ossi, a volte anche grossi, a volte anche grossi, che mangiano i cani depressi, sazi ma in catalessi, sazi ma in catalessi. Quel tipo di sopravvivenza non m'avrà la lenza, non m'avrà la lenza, no, io milito in un reggimento che scioglie ogni armento, che scioglie ogni armento dal tristo intruppamento. Suicida marito, io rido contento, non sono per niente sgomento all'assalto alla pugna, proprio portento. Cultura milizia est, vita milizia est, navigare nel cesse est, vivere, vivere, vivere, vivere, non necesse, no, io. Sì, io milito in un reggimento che scioglie ogni armento, che scioglie ogni armento dal tristo intruppamento. Suicida marito, io rido contento, non sono per niente sgomento all'assalto alla pugna, proprio un portento. Cultura milizia est, vita milizia est, navigare nel cesse est, vivere, vivere, vivere, vivere, non necessario.